Allora, io sono un amante davvero delle piccole cose che si intrufolano poi nella programmazione, e direi che mentre tutti, poi anche via Twitter o cose simili, si sono versati fiumi di inchiostro elettronico il giorno in cui Fulvio Collovati, per esempio, ha cominciato a chiamare sovietici i russi, ed era proprio il giorno, peraltro la partita si svolgeva nell'anniversario della dichiarazione di indipendenza e tutto. Io invece amo le piccole cose, e secondo me una cosa strepitosa come vedere l'inizio di un servizio lanciato da studio e vedere Saverio Montigeli che si avvicina a un citofono e, indicando con toni gravi la casa, dice: in questa casa abita lo zio di Cesare Prandelli. Ecco, io non sono riuscito a, ecco, ho avuto una reazione simile alla tua, e cose di questo genere mi piace immaginare come chicche, ed eravamo ancora forse neanche qualificati, no, sì, forse eravamo già passati, ma non oso pensare a dove alla finale arrivare, se l'esaltazione appunto dovesse prendere, certo. ma siamo qui che siamo pronti a tutto, siamo qui, siamo pronti a esplorare altri gradi di parentela, no? Perché in fondo uno zio è ancora abbastanza prossimo, direi, quindi per una finale ti puoi immaginare che cosa può succedere.